da iniziare, vai. Non importa mia di titolo. Allora, questi dati sono dell'AMPI che ammette la stessa AMPI che sicuramente sono per difetto, però sembra che siano state più di 70.000 le donne partigiane, organizzate naturalmente in tutti i modi, e le combattenti, quindi armate, furono circa 35.000. Di queste donne 4.653 furono arrestate, torturate e condannate dai tribunali fascisti, 2.756 deportate nei lager tedeschi, 2.900 le donne giustiziate o uccise in combattimento, oltre 1.700 ferite o mutilate. Le donne nella resistenza, noi ci sa anche all'Emerson la foto, cioè furono tante, e all'inizio furono descritte dopo la fine della guerra come le staffette, eccetera. Non è vero, tante hanno combattuto, anche se essere staffetta sinceramente era pericoloso come andare con la pistola, niente di più e niente di meno. Però ci sono delle donne, alcune delle donne che hanno fatto la storia della liberazione. Per esempio Carla Capponi, che era vicecomandante generale delle brigate che hanno liberato Roma, e Germana Boldrini, che aveva 17 anni e che lei lanciò il segnale che diede inizio alla liberazione di Bologna. Per quanto riguarda qui, visto che siamo qui vicini, e che appunto più in là ci sarà da parlare un monte, quindi se si dice qui è meglio, si voleva fare un accenno a una partigiana che abitava in Via delle Panche, che era stata era sfollata, cioè in seguito ai bombardamenti erano andati nelle case di Via delle Panche. Lei si chiamava Sisse come soprannome partigiano, cioè come nome partigiano, e lavorava al farmaceutico. Siccome i partigiani arrivati attestati in piazza Dalmazia non gli riusciva andare avanti su via Reginaldo Giuliani, perché i nazisti avevano messo una mitragliatrice davanti circa dove c'è la scuola lì in via Reginaldo Giuliani, la Don Minzoni, proprio sul marciapiede destro, e quindi praticamente da lì vedevano fino alla strettoia che poi metteva in piazza Dalmazia, e non gli riusciva prenderla questa mitragliatrice. Tutte le volte che provavano a avvicinarsi, i tedeschi cominciavano a sparare. Allora lei, lavorando al farmaceutico, era riuscita a passare di là, passando attraverso la ferrovia aveva visto un percorso che anche dei partigiani potevano fare, e due partigiani gli fece la strada, lì gli mise nei sotterranei dell'istituto farmaceutico, era un dedalo, e insieme, passando e ripassando, quindi insomma, molto, una cosa molto pericolosa, fece sì che i partigiani che erano ai farmaceutico e i partigiani che erano all'SMS di Rifredi, dove c'era il comando, si mettessero d'accordo sull'orario, in modo che da questa parte i partigiani cominciarono ad avanzare e i tedeschi si misero subito a controllare chi c'era e chi non c'era, e da dietro i partigiani li presero. I tedeschi si usarono subito, si arresero subito, tant'è che li chiusero in una stanza del farmaceutico, e la mitragliatrice che gli presero è stata un'arma fondamentale per poi liberare Castello e arrivare fino a Sesto Fiorentino. La Sisters.